Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. E ancora una volta siete approdati qui nello scalo dello swing questa sera al soundcheck di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Giorgio Telesforo e buonasera a Silvia Barba. Buonasera a te, buonasera a tutti. Quanto sei swing? Tanto, questa sera tanto, guarda, non sono vestita come dovrei. Sì, non è l'abbigliamento adatto, no, questo devo ammetterlo. Però sarà una puntata all'insegna della leggerezza, dell'allegria, sono pronta. Eh sì, leggerezza tipica dello swing, il divertimento tipico dello swing, che è il genere che oggi noi analizzeremo in qualche modo in queste due ore, perché è un po' il genere di musica, ma anche di danza, tornato di moda in Italia già da qualche anno. Sono nati dei festival importanti, ma ho notato ultimamente che per esempio nella nostra capitale, a Roma, c'è un bel movimento swing, cioè di musicisti e di ballerini e di appassionati che razzolano per locali abbigliati in stile, proponendo tutta la loro passione per questo genere immortale che è tornato di moda ma che ha fatto ballare i nostri nonni. E infatti è questa la peculiarità oggi, no? Si associa la musica al ballo, quindi alla socializzazione, alla condivisione di momenti anche di divertimento, no? Sì, quello che un po' si era perso con il jazz contemporaneo, un no? Un po'. È vero, no? Troppo complesso, i musicisti si lasciano andare, cercano di essere più creativi e intellettuali. Con lo swing, invece, per quanto venga fuori il talento dei musicisti, è la pulsazione ritmica dello swing che ci muove. Che ci muove e che ci fa prendere la vita con swing. Allora direi, mia cara Silvia, in questa prima parte, di raccontare lo swing attraverso il suono proposto dai grandi maestri. E io non posso non approfittare della puntata per proporre ancora una volta la mia preferita, che prima o poi, lo ripeto, riceverà un processo di beatificazione da Papa Francesco, uomo sensibile, che come fa a una donna come Ella Fitzgerald a non fare del bene ancora oggi? Tantissimo, noi abbiamo bisogno ogni tanto di ascoltarla per sentirci bene, veramente. Allora, diamo il via con la voce della regina dello swing, Ella Fitzgerald, accompagnata dal meraviglioso Duke Ellington. Ecco, allora erano due le orchestre, quelle forti, no? Esatto. Duke Ellington e Count Basie, lo abbiamo raccontato più volte. Il brano è una composizione di Duke Ellington, non una delle più famose, ma senz'altro una delle più divertenti. Il titolo onomatopeico è Blip Blip, Ella Fitzgerald, illuminaci! E sì, e dopo aver ascoltato Ella Fitzgerald, mia cara Silvia, credo ci sia solo un'esclamazione da fare. Che swing, ragazzi! Esatto, no, lei che, sì che ne aveva. No, che poi è il complimento più bello, credo, per un musicista, a prescindere dal genere. È vero, un musicista anche che fa musica diversa dallo swing, quando viene etichettato o complimentato, ci si complimenta con lui con "Ehi, hai il swing!" Eh sì, significa che hai ritmo, che hai dentro quella pulsazione in levare che ti fa muovere. Esatto. Eh sì, perché questo tipo di pulsazione che ha fatto muovere nei grandi locali i nostri nonni, no? Perché questa era la musica che si ballava, era la musica che si ascoltava in radio. Esatto. Contestualizzando un po', diciamo che l'era dello swing può essere racchiusa in un decennio particolare negli Stati Uniti, che va dal 1935 al 1945. Anni di ottimismo, di speranza, di anche speranza, se poi stava per arrivare, no, il casino con la Seconda Guerra Mondiale. Però i giovani di allora andavano nelle sale da ballo, si divertivano, socializzavano con questa musica, ascoltavano le grandi orchestre anche nere, quindi pubblico bianco che ascoltava i neri, che in qualche modo diventavano, appunto, uscivano dal ghetto che poteva essere Harlem, no? Quindi per quanto riguarda New York, e la loro musica poteva essere diffusa anche fuori da quel rango, da quel giro, grazie a cosa? Alle radio, appunto, che promuovevano questa musica e che in un certo senso compivano una sorta di democratizzazione, perché tu alla radio non puoi vedere che colore ha esatto, della pelle questo il merito, che il merito proprio della musica e della bella musica, cioè esatto. Musicisti e orchestre costituite da eccellenti musicisti neri che avevano come pubblico i bianchi, no? Quindi l'orchestra di Duke Ellington, Count Basie, e poi lo stile si diffuse e ci sono stati anche degli eccellenti protagonisti bianchi, e ne parleremo fra pochissimo. Ma io direi, mia cara Silvia, di tornare ad ascoltare Ella Fitzgerald nella sua interpretazione del brano manifesto dello swing e del jazz, It Don't Mean a Thing If He Ain't Got the Swing. Non significa nulla se non c'è lo swing. Lo diceva Duke Ellington, autore del brano, e qui ce lo ricorda Ella Fitzgerald al soundcheck di Radio 24. Fantastica. Soundcheck. Il suono della musica. Se Louis Armstrong era considerato the king of jazz, il re dello swing era invece il clarinettista bianco Benny Goodman, musicista eccezionale, dotato di una tecnica impressionante di stampo classico, ma anche un eccellente improvvisatore, compositore che diventò uno dei personaggi chiave dello swing americano. Benny Goodman, protagonista del soundcheck con la sua versione di Don't Be That Way, in questa puntata dedicata al genere. Intanto in questa prima parte il suono più classico, poi aspettiamo Pigi Siciliani che ci racconterà invece l'electro swing e come anima le nottate romane. Ma tornando al genere, mia cara Silvia, ecco, quando si parla di swing bisogna essere molto precisi. Di cosa parliamo? Di swing, genere musicale, quello che tu ci hai raccontato del decennio che va dal 35 al 45, Stati Uniti, grandi orchestre, Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman e via dicendo, o parliamo della pulsazione swing, quella tipica del jazz, quella in levare, quel meraviglioso complimento che viene fatto ai musicisti, oppure si può utilizzare anche per altre cose? Allora, io ti dico il significato letterale e tu mi dici la declinazione del genere. Va bene. Swing vuol dire agitare, mescolare, ondeggiare, dondolare. Eh sì, nel senso che non è un ritmo stabile come quello che poi inventò, perché era un inventore anche lui, James Brown, no? Che mise l'accento sul primo movimento, sul battere. Tutta la musica fino al periodo pre-rock and roll aveva questa pulsazione tipica dello swing in levare. Poi è stato James Brown, il groove master per eccellenza, a farci muovere in un altro modo fino all'hip hop di oggi. Però c'è stato un periodo che si organizzavano gli swing party. Ecco, e che party erano questi? Non erano proprio dei party musicali, ma erano dei party che avevano come argomento principe lo scambio, gli scambisti. Ah, ecco, era un dondolare diverso. Però sempre c'era quell'agitazione, no? Che ci vuole anche nella musica. Allora, di Benny Goodman, che sai? Tu l'hai ascoltato? Io l'ho ascoltato, lui rigoroso, si parla di lui, di un musicista e di un, diciamo, direttore d'orchestra molto un grande puntiglioso, professionista, eccetera. Però io ho scoperto che insieme a Duke Ellington in quegli anni erano anche attivi sul fronte antifascista, perché organizzavano anche dei concerti, avevano sostenuto appunto dei concerti per i lealisti spagnoli che nel frattempo in Europa combattevano contro appunto il fascismo, e quindi, come dire, era anche un momento di politico importante per l'America, che si affacciava invece alla democratizzazione, ne abbiamo parlato, no? Sì. Attraverso appunto questa interconnessione razziale che non era così evidente, ma che comunque in quegli anni aveva avuto i suoi primi accenni. E come dire, più che per ragioni politiche, comunque i musicisti si avvicinavano a questo fronte popolare perché offriva un'opportunità di impegno per i propri temi civili e contemporanei dell'America di quegli anni. Eh sì, che poi è arrivato in Italia è arrivato in giro per il mondo il genere per merito dei V-disc, ovvero quando i militari americani iniziarono a girare per il mondo per liberare anche il nostro paese, portavano con sé i V-disc, e quindi mio padre, per esempio, il jazz lo ha conosciuto così. Allora, Benny Goodman lo ascoltiamo qui in un altro brano. Se prima abbiamo ascoltato i Don't Mean a Thing If He Ain't Got the Swing, che era il capolavoro di Duke Ellington, manifesto del genere, c'era un altro brano che poi diventò sigla della big band di Benny Goodman, ma scritto da un musicista meraviglioso chiamato Louis Prima, e il brano è Sing Sing Sing, ma questa è la versione originale dell'orchestra di Benny Goodman, che dura 8 minuti e qualcosa. Ti prego, ascoltiamola tutta. Praticamente il disco mix degli anni 80, sì. No? 8 minuti di grandissimo swing, questo è l'originale, Benny Goodman, e alla batteria c'è quel campione, Gene Krupa. Soundcheck. Il suono della musica. Brano che ha fatto parte anche del repertorio di Frank Sinatra, celebrato quest'anno per il centenario della sua nascita, Pennies from Heaven, i pennies, ovvero le monete cascano dal paradiso, e in questo caso il brano ci viene proposto in una delle mie versioni preferite da un campione di swing, musicista dotato di grandissima energia, simpatia, un vero talento con la sua tromba, poi era proprio lui il compositore della sigla di Benny Goodman, come dicevamo, Sing Sing Sing, ovvero il meraviglioso Louis Prima, nato a New Orleans ma con origini siciliane. È vero, anche il papà era nato a New Orleans, ma suo nonno veniva da un paese della Sicilia che si chiama Sala Paruta. Ha generato la famiglia Prima e poi un vino eccezionale che ancora oggi beviamo con grandissimo piacere. Louis Prima, pensa a questo ragazzo siciliano con origini siciliane, perché poi è americano a tutti gli effetti, che si forma ascoltando la musica di New Orleans in quella strepitosa città carica di umori e di musica, che poi si sposta in giro per gli Stati Uniti, scrive musica per Benny Goodman e diventa di lì a poco uno dei protagonisti della scena musicale americana, portando sulla ribalta una band, un combo eccezionale dove era presente anche il sassofonista, anche lui con origini siciliane, Sam Butera, meraviglioso musicista. Louis Prima, che cosa sai di Louis Prima? Tu l'ascolti, ce l'hai io i dischi di Louis Prima? Lo ascolto perché mi mette allegria. Devo dire, è un personaggio davvero con un senso dello show molto accentuato. Lui ha lavorato anche tanti anni a Las Vegas, quindi gli show li sapeva fare. E era anche, tra l'altro, molto orgoglioso delle sue origini. Lui non mancava mai di ribadire che era un italo americano di New Orleans. No, poi, tra l'altro, molte volte cantava brani della tradizione popolare siciliana in versione italo-americana, scatenando il pubblico, quindi c'erano molti italo-americani che andavano a seguire i suoi spettacoli, però insomma era un musicista accreditato che fra i grandi successi che portò c'è anche una composizione intitolata Just a Gigolo, poi cantata da tutti, ma la versione anche live di lui Prima è una delle mie preferite, tra l'altro un brano che poi erroneamente viene attribuito a lui Prima, invece non è così. No, è una cover, pensa, di una canzone italo-tedesca che si chiama Schöner Gigolo, non so se la pronuncia è esatta, però era stata scritta nel 1929 da un pianista che si chiama Leonello Casucci. Sì, che faceva tango, in orchestre di tango lavorava. E poi Julius Brammer, poi è stato messo un testo in italiano e Louis Prima l'ha portato al successo. Ma sì, poi il testo in inglese e poi insomma è un brano che è diventato un must, addirittura no, sono state fatte versioni anche da band rock and roll. Allora io direi di ascoltare la versione di Just Gigolo di Louis Prima. Andiamo tranquillamente anche ad ascoltare le notizie, l'informazione di Radio 24, poi ci ritroviamo qui, sempre su questi schermi, per la seconda parte swing, anzi, electro swing. A dopo. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eccoci qui pronti dal Groovemaster Studio per la seconda parte del soundcheck di questo sabato. Fa molto freddo fuori, ma invece noi ci stiamo scaldando con lo swing. Una puntata dedicata allo swing, sempre in compagnia di Silvia Barba. E se prima eravamo in due a ballare e ad ascoltare lo swing, adesso siamo diventati in tre. Eh sì, perché è arrivato il nostro ospite, ovvero Pigi Siciliani, un appassionato compulsivo del genere, ma anche songwriter eter radiofonico, grande animatore di nottate swing nella nostra capitale, a Roma. Benvenuto al Soundcheck, Pigi. Grazie mille. A Soundcheck bisogna dire sa prova, secondo me. E fallo. Come va? Sa prova. Prova. Si sente benissimo. Fate il Soundcheck. Allora, grazie per aver raggiunto il nostro studio. Avrei sentito, venendo in macchina nella prima parte, abbiamo suonato dei grandi classici, bellissimo, grandi esponenti del genere, quelli storici. In questa seconda parte invece vorrei approfittare della tua presenza per proporre il suono di oggi dello swing, dell'electro swing, che è poi anche il tuo stile, no? Sì, è un mondo bellissimo secondo me, perché l'electro swing mescola i suoni di oggi a quelli degli anni 40, degli anni 30, e la cosa che mi diverte di più è la pulsazione ritmica, perché da un lato l'elettronica, sai, è un po' dritta e lo swing è sincopato, quindi io dico sempre che mi piace ascoltare con l'orecchio destro l'elettronica che va dritta, con il l'orecchio battere sinistro dell'elettronica, esatto, e col sinistro il levare dello swing. Esattamente. Senti, allora, da un po' di tempo tu come dicevo sei uno dei promotori, degli animatori delle nottate swing a Roma, ma da dove viene questa tua personale passione per il genere? Per me è successo in un percorso strano, nel senso che in casa si ascoltava molta canzone italiana e io mi sono appassionato ai cantautori e sono andato indietro a vedere le prime canzoni italiane, e, insomma, e gli anni 30 e 40, i periodi di Natalino Otto, di Rabagliati, del Trio Lescano, di Ernesto Bonino, sono stati un po' i miei preferiti. E quindi da lì poi ho allargato il campo, ho ascoltato il jazz americano, lo swing americano, e poi ho studiato proprio jazz con la chitarra, con la voce, eccetera, eccetera, e sono arrivato a pensare che l'elettro swing mi divertisse moltissimo, e così è andata. Io non so, Silvia, ma tu sei mai stata in questo, ce ne sono diversi adesso a Roma che sono animati anche per una sorta di complicità che c'è con le scuole di danza che praticano lo swing. Vero. Una volta c'era, un po' di anni fa c'era il latinoamericano, no? E adesso c'è lo swing. Non so se sei mai stato in un locale che si chiama La Moderna a Roma. Io sono stata durante un brunch, però so che tu sei stato invece una serata e anche ballato. Ho anche ballato, perché sì, questa è una cosa molto bella che fate, Pigi, cioè prima, sì, della serata, perché c'è il ristorante, prima della band in scena ci sono due insegnanti di danza swing, di ballo swing, che spiegano i fondamentali e quindi coinvolgono tutto il locale, che poi si lascia andare e partecipa pure a questa jam session di... Hai mosso qualche passo anche tu, se non ho mosso qualche passo, ma io mi muovo più che altro dentro. No, tu sei sempre in movimento. Sempre il groove in movimento. Non ti manca, diciamo. Senti, Pigi, va bene, io direi allora di fare una cosa, intanto di ascoltare quello che tu fai, dobbiamo anche presentarti e far capire al pubblico di Radio 24 che cosa fai nella vita, e siccome musica la fai professionalmente, adesso da un po' di tempo hai pubblicato questa tua versione di C'è chi dice no, di Vasco, sì, che è un brano di Vasco Rossi, quindi questa idea di, posso, non so se mi fate passare il termine, di manuscizzare, nel senso swing manouche, rendere un pezzo del rock pop italiano manouche. È una cosa difficile da fare, ma che nei brani scritti bene come questo qua, un brano perfetto se vuoi di Vasco Rossi, si può fare, la jazzificazione, la manuscizzazione, la elettroswingizzazione. Ma scusa, Vasco, che invece ha una pulsazione tipicamente rock and roll, ha sentito questa versione? Ha sentito e gli è piaciuto, l'ha postata su Facebook, è successo un casino tra i suoi fan, c'è avuto un momento di gloria vera grazie a Vasco. C'è chi dice no, Pigi al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Sì, una bella ragazza, senz'altro grintosa, con quel fisico che si ritrova, Dessi Di Lauro, canadese con origini anche in parte italiane, artista, ballerina e vocalist utilizzata dalle Cirque du Soleil, oggi protagonista dello swing, dell'electro swing. Però questa già è una variante dell'electro swing, perché è una versione quasi soul, tra l'altro comunque è un pezzo originale intitolato Popularity Contest. Dessi Di Lauro al Soundcheck di Radio 24, puntata dedicata allo swing, la prima parte, seconda parte più elettro, per la presenza di Pigi Siciliani, che è un esperto del settore. Sì, sì, mi piace moltissimo, perché io la chiamo anche un po' una macchina del tempo. C'è una mia canzone che si chiama L'amore ai tempi dello swing, che parla proprio della DeLorean di Ritorno al futuro, te la ricordi? Quella di McFly e Doc, che si mettevano insieme e andavano avanti e indietro nel tempo. Qua siamo anni 40, 2015, tutto quello che c'è in mezzo salta. alta. Si passa dagli anni 40 al 2015 e poi si torna indietro, si gioca a ping pong tra queste decadi lontanissime. Sa, a sentirti parlare, e comunque per tradizione lo swing, no? Come genere è nato per divertire un giovane pubblico e per socializzare. Ancora oggi il pubblico viene a questo tipo di concerti con questo spirito? Incredibilmente è ripartito proprio questo spirito. Quello che è mancato in tanti anni è stato questo, cioè dopo gli anni 40, 50 poi non si è praticamente più ballato lo swing e si è ascoltato, poi ovviamente il jazz ha avuto tutte le sue, i suoi stili, no? E quindi è diventato una musica completamente d'ascolto. Probabilmente questo è meraviglioso, a me piace tantissimo ascoltare nel silenzio di una sala da concerto il jazz e lo swing, però parallelamente è anche bello questo modo di fruire il jazz e lo assolutamente swing. E il merito però del ritorno allo swing è senz'altro dei musicisti, perché negli Stati Uniti il fenomeno è stato in qualche modo reso vitale dalle nuove generazioni che nelle università mettevano su le orchestre, cioè le orchestre universitarie suonavano il repertorio tipico dello swing, quindi quando c'erano le feste danzanti, ma ti sto parlando di 20-30 anni fa, i ragazzi si abbigliavano in stile e ballavano i grandi classici. In Italia, visto che nelle università certamente non si fa musica, meno male che nei conservatori un po' hanno rinnovato il parco musica, però in Italia ci sono dei musicisti appassionati proprio del genere, cioè musicisti di jazz che suonano solo ed esclusivamente quello e sono diventati bravissimi. Ecco, per la loro passione poi si è ritornati ad avere nei locali anche dei ballerini delle nuove generazioni. Ma non c'è dubbio, viene da citare Giorgio Cucito, Guido Giacomini, Alberto Botta, che sono anche Red Pellini, tuoi amici, insomma, sono personaggi. Noi stiamo citando musicisti romani. Poi in Italia il fenomeno insomma sta diventando importante, perché c'è un festival come quello che si fa a Senigallia che ha rilanciato ormai da anni il genere e anche l'abbigliamento, no? Assolutamente, perché poi c'è anche questo miscuglio con l'abbigliamento vintage che forse ha dato anche un po' un aiuto, no? A farlo diventare così di moda oggi. È divertente perché poi ci sono bretelle, cravattini, scarpe bicolori che si mischiano al gioco ed è tutta una grande festa, ecco. E probabilmente ha a che fare anche col periodo di crisi in Italia, no? Sì. La voglia di festa. E poi sai, lo swing degli anni del dopo Wall Street voleva dire uscire dalla crisi per gli Stati Uniti. Noi come se ci augurassimo che grazie allo swing uscissimo pure noi dalla crisi, sarebbe bello, insomma. Eh sì, è proprio così. Questa è la forza dello swing e anche oggi al Soundcheck Radio 24 sentiamo questa pulsazione. Io direi di tornare ad ascoltare Dessi Di Lauro, che ultimamente ha pubblicato qualcosa di nuovo. Si intitola Let Me Hear You Say Hip Hip, ovvero praticamente è quello che si faceva nelle big band, un botta e risposta, posso dire così, call and response, è quello che succede in questo brano di Dessi Di Lauro con Anon come rap. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Beh, e questa è una operazione molto interessante. Ho presentato questo brano anche nelle precedenti edizioni del Soundcheck, però in questo appuntamento dedicato allo swing non potevo tornare a presentare la versione di Brown Sugar di D'Angelo, uno dei tuoi prototipi preferiti, mia cara Silvia. Lo so che l'hai fatto per me, grazie. L'ho fatto per te perché ti volevo far ascoltare D'Angelo in versione swing, questo per l'opera, il lavoro fatto dal DJ producer francese Minimatic. Ho apprezzato, grazie. Merci. Merci. Molto bene, Pigi Siciliani, nostro ospite per parlare di swing, per raccontarci queste nottate romane cariche di energia e di colori. Lo abbiamo detto, per partecipare a queste serate ci sono vari locali. Beh, intanto puoi raccomandare qualche posto speciale dove, per esempio anche il lunedì sera, c'è un locale, si chiama Una Cosetta a Pigneto, che fa delle jam session. Dei laboratori swing, no? Esatto, sono un open swing lab, si chiama, l'ha inventato Giorgio Cuscito, lo fa tutti i lunedì, mettendo insieme anche spiegando come si suona ai ballerini. Cioè c'è un insieme di, capito, di culture che si mischiano, che è molto divertente in questo mondo. Come ti dicevo prima, è un ballo, è un divertirsi, ma sempre pensato, no? E io lo vedo così lo swing, come se fosse serio dentro e allegro e scemo, scanzonato fuori. E questa è la cosa bellissima. Certo, perché per suonarlo comunque ti devi preparare, devi essere un vero musicista. musicista. Devi essere un jazzista per suonare quella roba lì, però la fuori c'è sempre il sorriso, la gioia, quindi a volte viene anche un po' mistificato, dice, vabbè, ma sembra che state sempre scherzando, in realtà dentro c'è tanta roba importante. Quindi anche per i più curiosi, chi non è ancora appassionato al genere, però vuole trascorrere una serata assolutamente diversa, io consiglio di passare il lunedì da una cosetta, ecco, quale può essere la settimana swing da vivere a Roma, visto a Roma, che te sei a Roma. Diciamo, per lunedì una cosetta, martedì c'è il Vinile, che fa una delle serate il swing. Il Vinile, che cos'è il Vinile? È un localone dove si fanno tante serate swing, si chiama Swinghissimo. Beh, poi c'è il mercoledì. Il martedì, segna Silvia, perché martedì voglio andare, mi voglio vestire. Il mercoledì e il venerdì generalmente c'è la moderna, appunto, le serate che sto organizzando io, specialmente il venerdì, una serata proprio danzante, e poi il sabato c'è il Barrio, per esempio, altri posti, ci sono delle organizzazioni come Swing Circus che fanno anche dei festoni, o una tantum l'hanno fatto al Circo degli Artisti, al Monk, in posti molto grandi, dove ci riuniamo un po' tutti i vari organizzatori, tutti i vari ballerini e tutti i musicisti, ed è un po' la summa di tutto questo. E se prima di partecipare a una di queste serate ci volessimo preparare fisicamente, quali sono le scuole di musica, di danza, ecco? Ci sono tante scuole, io il mondo delle scuole non lo frequento, quindi non vorrei citarne alcune e dimenticare l'altra. Ma perché tu non lo balli? Io pochissimo. Devo dire che prendo le lezioni, quelle del preserale, e ogni tanto capisco qualcosa dell'indie hop, del Balboa, del Charleston, però poi dopo... Balboa? Sì. Da Rocky bello. Balboa? No. No, dal luogo dove si balla. Uno swing hawaiano, che cos'è? È uno swing molto chiuso, si fa in coppia, molto stretta, e si usava quello che piacerebbe a Silvia con D'Angelo. Mi interessa con D'Angelo, mi sembra giusto. No, si faceva nelle piste piccole, quando c'era tanta, oppure quando c'era tanta gente, quindi non c'era la larghezza per poter ballare l'indie hop, che per chi non lo conoscesse è un ballo quasi acrobatico, il pre rock and roll come tipo di ballo, no? L'indie hop quindi è molto quello largo, del film Elsa Poppin. Quello è l'indie hop. Il Balboa invece è più stretto e più verticale, più piccolino, si balla su un quadrato più piccolo. È il nostro ballo della mattonella. Esatto, però rimane swingato, quindi molto zompettante. Quindi insomma, ritmicamente gli devi dare giù, capito? Io seguirò le tue performance anche per vederti migliorare in queste cose, sappilo. Benissimo, Silvia, sei invitata, vedo che c'è del bounce, insomma, intenso. Allora, vorrei presentarti, mio caro Pigi, non so se conosci questo signore, che si chiama Adam Dorn. Adam Dorn, yes. Non è male, no? Eccellente musicista, bassista, che ha iniziato la sua carriera come fan di Marcus Miller. Si presentò proprio a casa di Marcus Miller, credo che questa sia la leggenda metropolitana, e tra l'altro ultimamente ha anche collaborato con lui per la realizzazione di Aphrodisia, l'ultimo album di Marcus Miller. Ma non è di Marcus Miller che io vi voglio parlare, bensì di Motion Worker, perché questo è il nome d'arte che lui ha scelto per realizzare le sue produzioni electro swing. Ecco, secondo me Motion Worker è proprio uno di quegli artisti di riferimento dell'electro swing di oggi, perché più che puntare al facile successo punta proprio alla creatività. Quindi sul suo computer mette insieme una serie di campionature prese dai dischi dell'epoca e realizza così le sue produzioni originali, molto interessanti e anche spinte. Sì, c'è tanta fantasia, tanta creatività, questo è il bello. Allora, Motion Worker con Soul Swing al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, Welcome to Italy è praticamente i turisti che arriveranno a Roma prossimamente potranno venire abbigliati proprio in stile per partecipare a queste serate super swing organizzate qui a Roma dal nostro Pigi Siciliani, nostro ospite protagonista proprio di questa sua composizione intitolata Welcome to Italy. Grazie Pigi per la partecipazione. Grazie a voi, che bello, abbiamo fatto proprio un mondo dello swing, elettro swing, un bel compendio. Allora, però ci devi fare una promessa, sì. Guarda, la prossima sera, adesso è sabato, dove vai tu? Beh, adesso andrò a suonare da qualche parte. Beh, sicuramente, sì, sicuramente. Adesso me ne vado. Però la prossima serata importante di swing, quella con i ballerini, ci devi chiamare. Noi vogliamo venire a fare il reportage proprio. Ci prepariamo e facciamo il reportage. Voglio ballare così. Guarda, c'è qualche lezione l'ha presa, mi pare. Provvederò anch'io, te lo prometto. Mi raccomando. Allora, Pigi Siciliani, nostro ospite, noi ci risentiamo domani, sempre alle 19:15, per il soundcheck della domenica, quello un po' più jazz. Domani, mia cara Silvia, parliamo di musicisti, grandi protagonisti del jazz, ma che hanno utilizzato molto bene anche la loro vocalità. E allora dovrò tornare anch'io. Sì, anche perché suono Chet Baker, che è uno dei tuoi preferiti. Esatto. Allora, ci risentiamo domani, vi lascio però, beh, questo è proprio il capolavoro dello swing, perché nella prima parte abbiamo sentito la versione strumentale, quella famosa di Benny Goodman, qui invece il compositore con la sua energia, il suo talento, la sua simpatia, Louis Prima, Sing Sing Sing. Grazie a tutti voi, ci risentiamo domani, sempre soltanto su Radio 24. Ciao! Ciao!